Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Ultimatum della Corte Costituzionale tedesca sull'acquisto di titoli da parte della BCE contrasta con le sue competenze. 3 mesi di tempo per chiarire il quantitative easing. Fase 2 Conte, l'avvio è incoraggiante ma la strada è lunga e alle regioni dice se possibile anticiperemo la ripresa di alcune attività. Il SARS-CoV-2 non è nato in laboratorio. Dopo l'attacco di Trump alla Cina, il superconsulente Anthony Fauci smentisce il capo della Casa Bianca. Maxi operazione della Guardia di Finanza contro il traffico di rifiuti, 70 arresti nel Salernitano. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Come hai sentito dai titoli, una notizia di poco fa: la Corte Costituzionale tedesca ha bocciato l'acquisto di titoli da parte della Banca Centrale Europea, lo strumento con il quale la BCE ha sostenuto titoli a rischio, compresi quelli italiani. Le borse hanno reagito negativamente, in questo momento però Piazza Affari è in territorio positivo, più 1,04%, così come lo sono le altre listini europee. Ne parleremo più avanti, tra poco, nella seconda parte di Effetto Giorno. Adesso però veniamo all'Italia con le parole del Presidente del Consiglio Conte sull'avvio della fase 2. Ha detto Conte è stata incoraggiante, gli italiani si sono rivelati responsabili, ma bisogna tenere comunque prudenza, ha ribadito Conte ancora una volta, e alle regioni dice se sarà possibile anticiperemo la ripresa di alcune delle attività che fino ad ora non sono consentite. Partiamo da qua. Grande voglia di ripartire da parte degli italiani, ma anche un grande senso di responsabilità. Così il Premier Giuseppe Conte commenta su Affari Italiani il primo giorno della fase 2, che definisce senza eccessivi disagi. Le attuali regole resteranno fino al 17 maggio, conferma Conte, e non esclude aperture anticipate e differenziate in alcune regioni se i dati lo consentiranno. Nell'ultimo bollettino si conferma il trend positivo degli ultimi giorni, solo 1220 nuovi casi, attualmente positivi, sempre in discesa, meno decessi, ospedali che si svuotano. Ma non prima di fine settimana sarà possibile registrare il prevedibile aumento di contagi legato alla fase 2. Sotto osservazione sono alcune regioni con tendenza ancora incerta, soprattutto Piemonte, Liguria e Trento, e la capacità del sistema sanitario di individuare e isolare subito i nuovi focolai. Solo 13 regioni su 21 hanno attivato le unità speciali di base previste dal Ministero della Salute e molto diversa è la capacità di fare tamponi. In testa Veneto, Val d'Aosta e Trento, in fondo le regioni del sud. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sull'avvio di questa fase 2 il governo Conte si gioca anche molte delle sue carte per la sopravvivenza del suo stesso governo in mezzo alle turbolenze generate non solo dall'opposizione ma anche dall'interno, dalla compagine guidata da Matteo Renzi. Questa è dedicata all'analisi di Daniele Biacchessi. A maggio il presidente del Consiglio Conte si gioca il futuro e quello della sua maggioranza. La riapertura prudente della fase 2 resta uno dei pilastri sul quale Conte costruisce l'agenda politica. Il governo dovrà varare nuove misure in grado di contenere l'emergenza sanitaria, armonizzare le ordinanze di alcuni governatori come quella della Calabria, difforme dal decreto presidenziale, dare più voce al Parlamento, predisporre la tanto attesa mini manovra economica. Sul piano strettamente politico, Conte dovrà soprattutto allentare le pressioni di Renzi sulla maggioranza nel segno di una coesione senza la quale, secondo il Premier, l'Italia resta debole nei mercati e nei negoziati con l'Unione Europea. Su questo filo del dialogo Conte costruisce il suo orizzonte, consapevole della difficoltà di mettere in campo la cosiddetta operazione dei responsabili, con l'apertura a Forza Italia nel caso di una crisi politica determinata dall'uscita dalla maggioranza di Italia Viva. La strada per Conte non è dunque semplice. E c'è stato un lungo vertice nella notte tra lo stesso Presidente del Consiglio Conte, il Ministro dell'Economia Gualtieri e i capi delegazione del Governo sul decreto di maggio, uno dei tasselli, come sentivamo, la mini manovra su cui il governo si sta impegnando in queste ore, decreto maggio che prevede uno scostamento di bilancio di 55 miliardi di euro. Un accordo di massima è stato raggiunto sui trasferimenti a fondo perduto alle imprese e invece la discussione è ancora aperta, quanto si apprende, sul reddito di emergenza. Sentiamo. Sarebbe ormai addirittura d'arrivo il via libera del governo al decreto maggio, una manovra da 55 miliardi sulla quale nella notte c'è stato un lungo vertice tra il premier Conte, il ministro dell'economia Gualtieri e i rappresentanti dei partiti di maggioranza. I nodi ancora da sciogliere sono quelli sul reddito di emergenza e sulle misure per le imprese che prevedono stanziamenti a fondo perduto e ricapitalizzazioni con risorse pubbliche. Ci sarebbe invece un accordo nel portare a 14 miliardi i fondi per la cassa integrazione e a quasi 3 miliardi quelli per la sanità. Prima di fare una sintesi, Conte nel pomeriggio tornerà a confrontarsi con le parti sociali. Gualtieri ha fatto sapere che l'obiettivo è quello di varare il decreto entro la metà di questa settimana. Sempre per le imprese, il provvedimento prevede anche il rimborso totale degli affitti per 3 mesi e il taglio delle bollette. In arrivo anche interventi per favorire la mobilità alternativa, incentivi fino a 500 euro per l'acquisto di biciclette e fondi ai comuni per realizzare piste ciclabili temporanee. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E la ministra Bellanova, la ministra per l'agricoltura, preme affinché il governo inserisca la regolarizzazione dei lavoratori stranieri regolari in questo decreto di maggio. Sono 600.000 gli invisibili che si spostano per i raccolti, le arance, i pomodori, ma anche le fragole. E allora sentiamo. Braccianti agricoli, ma anche colf e badanti, sono 600.000 gli invisibili stranieri che lavorano senza contratto e senza documenti che la ministra dell'agricoltura Bellanova vuole regolarizzare. La regolarizzazione per CIA Agricoltura porterebbe nelle casse dello Stato entrate per 1,2 miliardi di euro, ma se non si fa in fretta, dicono, i prodotti saranno abbandonati nei campi per mancanza di forza lavoro, con la conseguenza per le famiglie di trovare scaffali vuoti nei supermercati. L'emergenza coronavirus infatti impedisce gli spostamenti. I braccianti non possono spostarsi da regione a regione per raccogliere le fragole e gli asparagi a nord ora e poi i pomodori e le arance a sud quest'estate. Che vengano utilizzati i percettori di reddito di cittadinanza, obiettano i contrari alla regolarizzazione. Jean-René Bilongo, responsabile immigrazione per Fly CGL. Il lavoro in agricoltura richiede competenze, grande caspicate attitudini, è sudore e fatica, e non è detto che tutti lo possano espletare, lo possano svolgere. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora allarghiamo la cronaca sull'andamento dell'epidemia di coronavirus nel resto del mondo. Rallentano i contagi negli Stati Uniti, mentre resta alto l'allarme in India. La Corea del Sud invece sta ripartendo. 3 milioni e mezzo di casi, oltre 251 mila morti. Questi dati aggiornati della mappa globale Covid-19 rallenta il contagio negli Stati Uniti, dove nelle ultime 24 ore si è registrato il dato più basso di vittime da un mese a questa parte, 1015, 69 mila quelle totali. Resta alto l'allarme in India, che ha iniziato ad allentare le restrizioni nonostante i casi siano in aumento. La Corea del Sud, azzerati i casi in ha deciso di allentare le regole sul distanziamento sociale, consentendo il ritorno a scuola il 13 maggio prossimo. Sui 640.000 test eseguiti nel paese, oltre il 96% è risultato negativo. Dopo 3 mesi di stop, è ripartenza anche in Vietnam, dove si contano solo 271 casi e nessun morto. La Nuova Zelanda intanto fa sapere che non aprirà i propri confini al resto del mondo per molto tempo. L'intenzione è quella di creare una sorta di bolla, una zona sicura di viaggio tra il paese e l'Australia. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Cina, come sappiamo, è finita nel mirino degli Stati Uniti, ma anche di altri paesi come la Gran Bretagna, la Francia, l'Australia, sulle origini del virus che per il segretario di Stato americano Pompeo è da ricondurre ad un laboratorio, quello di Wuhan. Trump annuncia un rapporto su questo, ma il suo super consulente Anthony Fauci, massimo esperto di malattie infettive, non crede a questa possibilità. Le nuove stime del governo americano dicono che ci sarà un aumento del numero di morti da Covid-19 negli Stati Uniti per l'estate. Si parla di circa 135.000 persone all'inizio di agosto. Le vittime, secondo queste nuove previsioni, potrebbero più che raddoppiare rispetto alle ultime stime di metà aprile. L'aumento della mobilità delle persone e l'ammorbidimento delle misure di distanziamento sociale in 31 stati sono i fattori di rischio che hanno contribuito a rivedere al rialzo i morti causati dalla pandemia. Donald Trump continua a minacciare ritorsioni contro la Cina per la diffusione del virus. La Casa Bianca ha allo studio un pacchetto di opzioni contro Pechino, tra cui sanzioni unilaterali, nuovi dazi commerciali e incentivi fiscali e sostegni per convincere le aziende americane che hanno stabilimenti in Cina a tornare in patria o a spostarle al di fuori del paese asiatico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità intanto smentisce la crociata americana contro la Cina. Il Covid-19 è di origine naturale, come Ebola e la SARS, dicono in una nota. Non è stato creato dall'uomo. Le tesi americane sono solo speculazioni. Le nuove tensioni tra Stati Uniti e Cina ieri hanno avuto pesanti conseguenze su tutti i mercati finanziari. Riccardo Barlam, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ci sono i dati diffusi poco fa sulla prima giornata della fase 2 per quanto riguarda le sanzioni, i controlli da parte delle forze dell'ordine. Sono stati effettuati 258.000 controlli sulle persone, 100.816 controlli sulle attività commerciali. Ebbene, sui 258.000 persone controllate, le persone sanzionate sono state 3.691, mentre per quanto riguarda le attività commerciali ci sono state 96 sanzioni solamente, 23 provvedimenti di chiusura. E adesso con la cronaca cambiamo argomento e vi parliamo di una maxi operazione contro il traffico illecito di rifiuti scattata all'opera della Guardia di Finanza nel Salernitano. Un sistema che ruotava intorno al porto commerciale di Salerno ed aveva come fulcro del malaffare la dogana. Corruzione, peculato, falso, contrabbando e traffico internazionale di rifiuti, questi i reati contestati. L'inchiesta della Procura di Salerno ha rivelato come costantemente venissero commessi furti dai container, episodi di corruzione per favorire il transito di merci non controllate, trasferimento di rifiuti illegali senza alcuna verifica. 69 le persone coinvolte, in gran parte funzionari doganali, ma anche personale sanitario, dipendenti di società che operano nel porto di Salerno, spedizionieri. 39 agli arresti domiciliari, per 21 è scattato il divieto di dimora, per altre 9 persone la misura interdittiva dell'esercizio della professione e dell'accesso ai pubblici uffici. L'operazione, seguita da oltre 250 militari della Guardia di Finanza, ha coinvolto anche le province di Avellino, Caserta e Napoli. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo allo sport. Il ministro dello sport Spadafora apre alla ripresa del campionato di calcio. Sarà possibile riprendere gli allenamenti di tutta la squadra, ha detto ieri Spadafora. Credo che entro questa settimana la questione più complessiva del calcio troverà una soluzione. 13:13, noi facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Novità per quanto riguarda gli incentivi per l'acquisto di bici, ma anche monopattini, biciclette elettriche, in arrivo con il decreto maggio. E poi la notizia in cui abbiamo aperto questa edizione di Effetto Giorno, cioè la decisione della Corte Costituzionale tedesca di bocciare l'acquisto di titoli da parte della BCE, il quantitative easing. Cercheremo di capire che conseguenze ha questa decisione che arriva dalla Germania. E poi faremo il punto, ve lo anticipo, molto importante sull'andamento dei test sierologici, dai quali si attende di capire a che punto è l'epidemia di coronavirus in Italia. A tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Queste le notizie di oggi. Ultimatum della Corte Costituzionale tedesca all'acquisto di titoli da parte della BCE, contrasta con le sue competenze. 3 mesi di tempo per chiarire, dice la Corte tedesca. Fase 2, Conte, l'avvio è incoraggiante, ma la strada è lunga e alle regioni dice se possibile anticiperemo la ripresa di alcune attività. Intanto arrivano i dati sui controlli effettuati ieri, primo giorno della fase 2, su 250.000 persone controllate, quasi 4.000 sanzioni. SARS-CoV-2 non è nato in laboratorio. Dopo l'attacco di Trump alla Cina, il superconsulente Anthony Fauci smentisce il capo della Casa Bianca. 13:16, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Questi titoli di oggi, delle principali notizie. Adesso vogliamo parlare di una notizia che si è diffusa qualche giorno fa e che ha allarmato abbastanza, perché riguarda il coinvolgimento dei bambini all'interno della epidemia di coronavirus con una possibile associazione ad un'altra malattia, la sindrome di Kawasaki. Ne avrete forse sentito parlare, perché è una malattia molto rara che colpisce in genere bambini sotto 5 anni di età, con sintomi che vanno dalla febbre alta a eruzioni cutanee, ma in alcuni casi molto rari ci possono essere anche delle complicazioni cardiache. Bene, sembra che ci sia un'associazione proprio con il coronavirus, un aumento inaspettato di questa sindrome. Ne parliamo con il professor Angelo Ravelli, che è direttore della clinica di pediatria e reumatologia dell'Istituto Gaslini di Genova. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno a lei, ascoltatori. Grazie per essere con noi. Allora, che cosa si sa fino a questo momento? So che c'è stato anche una specie di simposio, insomma un convegno di diversi pediatri al quale pure lei ha partecipato, naturalmente riuniti in videoconferenza a livello mondiale, per capire questo allarme che è partito dalla Gran Bretagna, se ricordo bene, e che poi si è esteso anche all'Italia, per questo diciamo apparizione fuori dai numeri normali, che sono in genere molto bassi, di queste sintomi da sindrome di Kawasaki per i bambini. E ringrazio dell'invito, però devo iniziare correggendola, perché in realtà l'allarme è partito dall'Italia, ecco. E in particolare dal gruppo di studio di reumatologia della Società Italiana di Pediatria, di cui io sono segretario. Noi ancora in data 24 aprile abbiamo inviato a tutti gli soci della Società Italiana di Pediatria, che sono più di 11.000, sì, un'email, un comunicato attraverso il quale allertavamo i pediatri italiani circa l'osservazione di un'aumentata frequenza, in particolare nelle zone più colpite dall'epidemia da Covid-19, di casi di malattia di Kawasaki. Malattia di Kawasaki che aveva l'aspetto tipico di questa condizione, però si accompagnava ad alcuni segni non tipici, come dolori addominali, nausea, vomito, interessamento del miocardio, cioè della parte muscolare del cuore. Perché normalmente, professore, la malattia di Kawasaki invece che sintomi ha? I sintomi classici che si osservavano in questi pazienti comunque sono la febbre, le macchie sul corpo che somigliano a quelle del morbillo, l'ingrandimento delle linfoghiandole agli angoli della mandibola, la congiuntivite, l'arrossamento quindi degli occhi, la lingua, l'arrossamento della lingua, si parla di lingua fragola, lingua lampone, ed edema, quindi il rigonfiamento delle mani e dei piedi. Quindi oltre a questi segni, sì, queste forme si accompagnavano ad alcuni elementi non tipici, non frequentemente osservati nelle forme abituali di malattia di Kawasaki, che sono quelli che ho citato: sintomi gastrointestinali, interessamento del muscolo cardiaco, quindi miocardite più che interessamento del coronario, sì, e poi alcuni di questi pazienti, più spesso di quanto si osserva abitualmente, sono andati incontro a complicanze potenzialmente serie, come quelle che noi definiamo come sindrome da attivazione macrofagica o sindrome dello shock tossico. Credo che sarebbe difficile spiegare i dettagli poi agli ascoltatori, però sono complicanze potenzialmente temibili che possono, sì, richiedere ricovero di terapia intensiva. Perché fascia di età, mi scusi professore, stiamo parlando? Ecco, sì, l'ha già detto molto bene lei, la malattia colpisce preferibilmente i bambini sotto i 5 anni, anche addirittura più spesso sotto i 2 anni, però un altro elemento atipico di queste condizioni è che la fascia di età è un pochino più ampia, sono stati coinvolti anche bambini sugli 8-10 anni e anche qualche adolescente. Ora, vi dicevamo di questa informazione che noi abbiamo diffuso, inizialmente è passato un tantino sotto silenzio, nonostante avessimo anche emesso un comunicato stampa al Gaslini di Genova, e l'attenzione mediatica è esplosa non appena sono arrivate le segnalazioni dalla Gran Bretagna, che sono state riprese non soltanto dal sistema sanitario inglese, ma anche, sì, dalla BBC e da alcuni quotidiani come l'Independent e il Guardian. Devo dire che i colleghi inglesi hanno presentato questa condizione con toni molto più allarmistici dei nostri diciamo, sottolineando soprattutto queste complicanze potenzialmente gravi e la frequente necessità di ricoverare i bambini in terapia intensiva, di sottoporli a terapie aggressive. Questo probabilmente è dipeso dal fatto che la nostra informativa è stata originata in ambito reumatologico pediatrico, sì. mentre diciamo le informazioni inglesi sono state emesse soprattutto dagli intensivisti. Cioè Però scusi professore, per uscire un attimo anche dai tecnicismi e per far capire agli ascoltatori ancora meglio, le faccio ancora due domande. Una, che con che frequenza statistica si è riscontrato in Italia questa sindrome, e poi le chiedo anche qual è a questo punto, diciamo, la conclusione magari temporanea del legame temporaneo, nel senso che può essere rivista naturalmente, come accade sempre in ambito scientifico, per quanto riguarda l'associazione tra il coronavirus e questa sindrome di Kawasaki. C'è un rapporto di conseguenzialità, sì, oppure no? Sì, sono due punti molto importanti, direi cruciali. Il primo punto, e questo è importante dirlo per evitare di creare un eccessivo allarmismo, di creare o peggio panico presso le famiglie, soprattutto le mamme. È una condizione questa rara, che rimane rara, okay, e direi eccezionale. Parliamo in Italia di quanti casi? Possiamo dare un numero? Stiamo raccogliendo i casi come gruppo di studio, abbiamo lanciato una raccolta dati, ma io posso per ora fare delle stime perché non ho ancora in mano i dati definitivi. Parliamo di diverse decine di casi, ma tra 50, 60, 70 casi nel centro nord Italia. Però in quanti casi ci sono le complicazioni più gravi all'interno anche di questo? Questo non glielo posso dire, posso stimare un 30%, un caso su tre, un caso su quattro. Ok, quindi parliamo di una... Per rassicurare le famiglie che esiste una terapia per questa malattia, che è rappresentata dalla somministrazione di immunoglobulina endovena. Perfetto. Che spengono i sintomi e in più prevengono le complicanze coronariche, e tutti i bambini che hanno avuto anche le complicanze gravi sono stati trattati col cortisone, con cortisone ad alte dosi, hanno risposto tutti bene e hanno avuto tutti una regressione. Benissimo. L'ultima cosa, professore, per quanto riguarda l'associazione del coronavirus, perché mi consente anche di rispondere alla sua domanda iniziale circa la sua segnalazione iniziale di questo meeting virtuale che c'è stato recentemente sabato notte, a cui hanno partecipato più di 1800 pediatri di tutto il mondo. È stato come dire organizzato dai colleghi del Children's Hospital. Sì, qual è la conclusione a cui siete giunti, se è possibile? C'è un interesse planetario, perché la malattia di Kawasaki è una malattia di cui non si conosce la causa. È chiaro che il fatto che sia nata l'ipotesi attraverso queste segnalazioni e osservazioni che il coronavirus possa essere collegato alla malattia di Kawasaki ha sollevato un enorme interesse, sia perché questo potrebbe chiarire la causa della malattia, per meglio di una quota di questa malattia, ma anche potrebbe contribuire a spiegare i meccanismi attraverso cui l'infezione porta alla malattia, perché si ritiene, e questo è stato il frutto della discussione che c'è stata proprio l'altra notte, che non sia tanto l'infezione, il virus in sé a causare la malattia, ma una reazione immunitaria, cioè la reazione di difesa nei confronti del virus che l'organismo monta comunque sempre di fronte a un'infezione, che i soggetti con una particolare predisposizione possa portare a... Chiarissimo, si tratterebbe di una ennesima, diciamo, conseguenza o effetto collaterale, io dico in maniera non appropriata, ma insomma per semplificarsi, ha a che fare con la reazione del sistema immunitario all'infezione. E comunque parliamo di alcune decine di casi. Nei casi di complicazione è sempre una stima, forse una decina, 12, 13, 14 casi, non di più in Italia fino a questo momento. Io la ringrazio, professor Ravelli, grazie per essere stato con noi e per averci chiarito anche questo aspetto, che riguarda sì una minoranza, una super minoranza fortunatamente di bambini. Ci sono anche tutte le cure, come spiegava il professore, del caso, ma insomma era giusto chiarirlo perché anche questo aveva destato allarme. Adesso invece, prima di tornare poi nella seconda parte con un altro appuntamento per quanto riguarda l'emergenza coronavirus nei termini di cercare di fare il punto sull'andamento dei test sierologici, con i quali vedremo a che punto è l'epidemia nel nostro paese. Adesso invece spezziamo occupandoci di mobilità, perché si fa molto affidamento per questa fase 2 sull'utilizzo di mezzi privati, naturalmente non solo autovetture con rischio di creare ingorghi stradali, più traffico per via delle auto, ma anche biciclette, monopattini, biciclette elettriche e quant'altro offre il mercato dal punto di vista delle due ruote. Di questo si è occupata, partendo soprattutto dall'esperienza di Roma, Alessandra Schepisi. L'Italia riparte fortunatamente senza caos, nessun assalto a treni, autobus e in generale il rispetto delle regole, ma il vero test arriverà tra qualche settimana, quando probabilmente riapriranno altre attività. Occorre dunque pensare in prospettiva. Per il ministro dei trasporti De Micheli, puntare su mezzi alternativi, sostenibili, individuali, come la bicicletta e il monopattino, che tra l'altro assicurano il distanziamento sociale e per i quali annuncia l'arrivo di incentivi nel decreto di maggio fino a 500 euro non calcolati per soglie di reddito. Ma come funzioneranno gli incentivi? Al ministero spiegano che verrà istituita una piattaforma online simile a quella che venne creata per l'acquisto dei seggiolini per bambini. Basterà che l'acquirente carichi la fattura per ricevere in poco tempo il rimborso. E intanto le città si muovono. A Roma la Giunta ha approvato qualche giorno fa un piano per la rete di ciclabili transitorie, il cui primo lotto sarà pronto entro fine estate. Il presidente della commissione trasporti del Campidoglio, Enrico Stefano. Piano che prevede 150 chilometri di ciclabili transitorie, quindi infrastrutture all'inizio leggere e poi via via più definitive. Il primo lotto sarà di circa tra i 20 e i 40 chilometri. Ciclabili che, ha precisato proprio oggi il ministro De Micheli, non saranno condivise con i ciclomotori, ipotesi che aveva scatenato parecchie polemiche. Ma si punta anche sulla micromobilità e sullo sharing. Sulle bici a Roma presente dallo scorso autunno Elbitz con 1000 mezzi e Jump di Uber con 2500. Il general manager di Jump, Fabio Stefanini. Quello che abbiamo fatto è dedicare un team di persone che per strada si occupano di sanificare la bicicletta, quindi assicurando di fatto per tutto quanto quello che possiamo che la trasmissione del virus sia il minore possibile. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Adesso è con noi in collegamento da Francoforte la corrispondente del Sole 24 Ore, Isabella Bufacchi. Ciao Isabella, buongiorno, ben ritrovata. Ciao, buongiorno a tutti. Per cercare di capire meglio la notizia che è arrivata metà mattinata dalla Germania, e cioè la sentenza della Corte Costituzionale tedesca, l'opinione della Corte Costituzionale tedesca sulla questione dell'acquisto dei titoli da parte della BCE, cioè il quantitative easing. Ricordiamo semplicemente che si è trattato di piani di acquisti che sono ancora in corso da parte della Banca Centrale Europea per sostenere in qualche modo il prezzo, per sostenere il rischio di alcuni titoli di Stato che avevano appunto profili maggiori differenziati di rischio in Europa. Ebbene, è arrivata questa sentenza della Corte tedesca. Che cosa dice questa Corte? Beh, innanzitutto bisogna chiarire che la Corte tedesca non fa alcun rilievo sul programma pandemico della BCE. Quello che è stato lanciato adesso con l'emergenza da 750 miliardi e che sta facendo il grande lavoro al quale tu ti riferivi sui titoli di Stato. Quindi andiamo a ricostruire un po', cioè la Corte tedesca ha avuto dei ricorsi da parte di cittadini economisti tedeschi sul primo programma di quantitative easing, quello di Mario Draghi, che è stato lanciato nel 2015 e è finito nel 2018. Questi ricorsi, poi ecco, questa cosa va avanti da anni. La Corte tedesca ha chiesto un giudizio o un parere alla Corte di Giustizia Europea, che si è espressa tra l'altro a fine 2018 per dire che il QE, i rilievi che erano stati fatti dai cittadini tedeschi non avevano nessuna base giuridica, cioè non c'è monetizzazione del debito pubblico. Questa è la grande preoccupazione della Germania, che viene finanziato direttamente il debito degli stati, quindi questo la Corte di Giustizia Europea disse non c'è, e che poi la BCE rispetta anche il suo mandato, quindi non va oltre il suo mandato. Perché uno dei punti sollevati adesso è proprio quello che questo acquisto sarebbe fuori dalle sue competenze. Diciamo che innanzitutto la Corte tedesca riconosce che non c'è la monetizzazione del debito, questa era la grande preoccupazione. Dopodiché entriamo. Cioè, questo è un aspetto positivo, diciamo, per semplificare, per chi sostiene l'utilità di questo acquisto di titoli, perché non essendoci monetizzazione del debito, non c'è, come dire, un effetto surrettizio di acquisto del debito in qualche modo. Sì, cioè che sì, la BCE, il trattato vieta la BCE il finanziamento diretto degli stati, e questo non avviene. E questo non avviene. Però è grave che la Corte tedesca fa un rilievo sull'impatto proporzionale, che secondo la Corte non c'è, del QE sotto il profilo di ricadute economiche e fiscali. Quindi fino a che punto questo QE fa del bene a tutti in maniera proporzionale. Ecco, questo rilievo, la cosa grave che è accaduta oggi la Corte Costituzionale è che la Corte dice innanzitutto il Consiglio direttivo della BCE ci deve spiegare bene i motivi e darci prova che la proporzionalità è rispettata, e poi va anche oltre dicendo se poi questo non dovesse essere, se non ci sono i chiarimenti opportuni, la Bundesbank, cioè la banca centrale tedesca, a questo punto si tira fuori dal programma. E quindi è tutto sommato una minaccia molto forte, che però al momento lascia tutto invariato, cioè hanno chiesto una verifica su una proporzionalità e oggi il consiglio direttivo della BCE intanto alle 18 si riunisce, non decideranno nulla, ma intanto prendono potrebbero, atto e cominciano, diciamo, a riflettere. Ecco, e la BCE su questo ha prontamente detto che risponderà. Certo, qual è la preoccupazione di tutti? È che poi in realtà qui siamo partiti da un rilievo che ha a che fare col vecchio QE e poi adesso si può arrivare anche al nuovo, al programma pandemico, naturalmente. Staremo a vedere. Isabella, ci fermiamo qua per il momento. Ti ringrazio. Staremo naturalmente a vedere, perché come ha giustamente sottolineato Isabella Bufacchi, finché parliamo di qualcosa che è già accaduto, se volete si parla di una sentenza di scuola, forse anche da un certo punto di vista, ma se poi si entrerà nel merito di quella che è l'azione adesso della Banca Centrale Europea, potrebbero cambiare anche gli equilibri, ma è molto presto adesso per valutarlo, staremo a vedere. Intanto questa era l'analisi della notizia che arriva dalla Germania oggi, 13:32 minuti, piccolo break, torniamo tra un attimo. Queste le notizie di oggi, 258.000 controlli e quasi 4.000 sanzioni da parte delle forze dell'ordine ieri, primo giorno di fase 2, controllate anche le attività economiche, 90 sanzioni. Intanto Conte dice l'avvio è stato incoraggiante, la strada però è ancora lunga e alle regioni, se possibile, anticiperemo la ripresa di alcune attività. Ultimatum della Corte Costituzionale tedesca sull'acquisto di titoli da parte della BCE contrasta con le sue competenze. Anthony Fauci smentisce il capo della Casa Bianca, il SARS-CoV-2 non è nato in laboratorio. Quanti italiani hanno fatto il coronavirus? Avvia il campionamento statistico dei test sierologici. A effetto giorno facciamo il punto col presidente dell'Associazione Microbiologi Italiani. 13:36 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Andiamo velocemente, visto che abbiamo accumulato un po' di ritardo, con il punto del vice direttore del Sole 24 Ore. Tra poco, come anticipato, faremo il punto sull'andamento in Italia dei test sierologici, quelli per capire, insomma, gli anticorpi del coronavirus tra gli italiani, a che punto, fino a che punto si sono diffusi. Il punto di Alberto Orioli. Se le domande di cassa integrazione in deroga sono ferme a poco meno di 58.000 unità, significa che c'è un problema. Se le richieste dei prestiti fino a 25.000 euro coperti al 100% dalla garanzia pubblica si fermano a poco più di 52.000 domande, significa che c'è un problema. Se poi le domande di prestiti totali, che nelle intenzioni del governo devono mobilitare addirittura 450 miliardi, e si fermano solo circa 80.000 unità, significa che c'è un problema. E quel problema si chiama burocrazia. Una volta è la farraginosità che lascia in capo alle banche, la necessità di fare istruttorie complicate che richiedono fino a una ventina di documenti e altrettante autorizzazioni. Un'altra volta è la complicazione di alcune procedure dell'INPS. Un'altra volta ancora è la diversa scelta applicativa che fanno le regioni, ciascuna per proprio conto. Sta di fatto che l'Italia della fase 2, mentre mostra la disciplina e il senso di responsabilità di tutti i suoi cittadini, mostra anche che il paese legale e formale non manca ancora una volta di schierare il peggio di sé. Non che si chieda una franchigia per l'illegalità, ma solo il buon senso di chi possa vedere nei concittadini persone per bene e non un popolo presunto di furbi e devianti sempre e comunque. L'Italia non è questa, e per ripartire davvero ha bisogno di sostegni robusti e soprattutto veloci. IgM e IgG sono i famosi anticorpi che si presentano nel corpo umano dopo 5 giorni l'IgM dall'infezione e più tardi l'IgG dopo 15 giorni sono quelli che restano più a lungo e che dovrebbero renderci immuni dall'infezione. A caccia di questi IgM e IgG si stanno scatenando i test sierologici che sono partiti a livello locale ma anche a livello nazionale perché, come abbiamo già avuto modo di dire, il commissario Arcuri ha selezionato quelli dell'americana Abbott, 150.000 kit. Per una prima tornata potrebbero esserci ne altri 150.000, non serviranno questi a dare la patente di immunità a nessuno, ma a capire a che punto è a livello del nostro paese l'andamento dell'epidemia di coronavirus. Ne parliamo con Pierangelo Clerici, presidente dell'Associazione Microbiologi Clinici Italiani. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo detto che c'è un livello nazionale che è quello di questi 150.000 kit, ma prima ancora, che sta partendo in questi giorni, ma prima ancora erano partite le regioni, ognuna con dei test selezionati sul mercato, diciamo un po' con un po' un via libera di tutti, anche se tutti cercano test validati scientificamente, non sono moltissimi. Poi però, professor Clerici, ci sono anche test fatti a livello privato, dalle aziende, dai singoli cittadini. Insomma, è un mercato molto ampio. Che cosa sappiamo fino ad ora di tutta questa situazione? Allora, cerchiamo di fare un poco di ordine. Allora, i test selezionati dal commissario straordinario Arcuri, sono 150.000 test, verranno distribuiti a tutte le regioni e i pazienti verranno selezionati su base statistica da parte dell'Istat, per cui saranno 150.000 persone rappresentative di età, di categoria o quant'altro, per avere una stratificazione di una popolazione. Questi servono solo per tracciare quanto il virus si è diffuso all'interno della nostra nazione. Quindi sapremo quant'è l'incidenza percentuale della presenza del virus nelle singole regioni. Questo è il significato epidemiologico dell'indagine nazionale. Poi abbiamo le indagini regionali che, per esempio, in Lombardia portano in questa settimana, nella settimana scorsa e in quella futura, a sottoporre a prelievo tutta la popolazione sanitaria di tutti gli ospedali, delle case di cura accreditate, dell'RSA e coloro che sono a casa in contumacia senza aver mai avuto una diagnosi da tampone. Perché i tamponi sono, diciamo, hanno ancora un livello di processamento limitato. Il quindi problema dei tamponi è la potenza di fuoco delle macchine, esatto, che li possono processare, per cui chiaramente ne stiamo facendo tantissimi, perché poi spesso ci si dimentica che la Lombardia mediamente ne fa più del Veneto. Però è anche vero che è una popolazione doppia, per cui comunque però li stiamo facendo assolutamente. Però quello che sta facendo la Lombardia è proprio mettere sotto controllo la situazione ospedaliera con questi test serologici, comprendere chi ha avuto contatto col virus e non ha più il virus nel proprio organismo, facendogli un tampone. A questo punto avremo un'indicazione sufficientemente precisa anche di quanta popolazione temporaneamente potrebbe risultare immune. Ce l'abbiamo già però un'idea, professore, perché glielo chiedo, perché in attesa del campionamento statistico, che sarà quello che in maniera più precisa, come ha detto giustamente lei, ci darà la fotografia quasi esatta, insomma, della situazione in Italia, però i campionamenti sono già partiti in Emilia, in Liguria, in Lombardia, abbiamo già dei dati. I dati sulla popolazione ospedaliera, dalle Alpi alle Piramidi, oscillano mediamente dall'1 al 23% come presenza di anticorpi. Per cui chiaramente troveremo valori più alti nelle zone in cui ci sono stati focolai intensi e valori più bassi li stiamo trovando in zone dove sicuramente è circolato meno. Questo parallelamente comunque è traslabile anche sulla presenza del virus con i tamponi che sono stati effettuati, per cui ci sta dicendo qualcosa di più, ma era quanto già in parte in linea con quello che ci potevamo attendere. Assolutamente. Per quanto riguarda invece un diciamo popolazione non categorie non sanitarie, cioè io parlo di gente comune, giusto, questo è il problema che ci come Regione Lombardia ci siamo posti per affrontarlo alla fine di tutto questo panel di personale sanitario e si aprirà, perché la Regione Lombardia ha intenzione di acquistare milioni di test, sempre con metodiche però validate, importanti, che sono metodiche che richiedono un prelievo venoso e vanno su strumentazione, e sottoporremo pian pianino tutta la popolazione per vedere la circolazione del virus, che è cosa diversa rispetto a quello che stanno facendo alcune aziende private che devono reintrodurre i propri operai nel ciclo lavorativo. In genere queste aziende, come alcuni comuni, fanno i test rapidi, i cosiddetti test a saponette, sì, pungidito, di cui il limite è la sensibilità. Noi ne abbiamo valutati tanti, anche come comitati scientifici, e c'è una sensibilità quindi di veri negativi che oscilla dal 20 al 70%. Capisce che trovare 8 falsi negativi sarebbe un dato estremamente grave. Mediamente si attesta sul 50% il valore. Vuol dire che lei ne fa 10, sì, con un valore di sensibilità al 50%, lei ha 5 falsi negativi. Cioè gente che ha gli anticorpi ma che quel sistema non li prende, non li dimostra. E questo è un limite. Questo è un bel problema. Infatti è per questo che, per esempio, sul personale sanitario, sì, non si fanno assolutamente questi test, si fanno quelli con sistema Clio ELISA da prelievo venoso, che sono sicuramente molto più sensibili. Ma scusi, per darci un ordine di grandezza, lei ha parlato di, appunto, un ordine di grandezza del 50% di falsi negativi, ma sì, stiamo parlando in generale, diciamo, di questi test, del mercato dei test che ci sono, diciamo, ci si può imbattere. Sappiamo che la Gran Bretagna ha buttato via milioni di kit. 35 milioni, ma per esempio non so se lei è in grado di entrare nel merito, o se non può, anche per il suo ruolo, o se vuole, di quelli acquistati dalla americana Abbott, o anche quelli questi sono discorsi diversi. Quelli della Abbott che verranno distribuiti, stiamo parlando della gara nazionale, sì, no, quelli sono test sierologici da prelievo venoso, non sono pungidito, i 150.000 che verranno effettuati, quindi sono test validati assolutamente. Non sono pungidito. La stessa cosa vale anche per quelli della Diasorin che vengono utilizzati in Lombardia, eccetera. Certo. Assolutamente, infatti ho fatto la distinzione, quelli che abbiamo detto prima, nazionali e regionali, sono da prelievo venoso e hanno una sensibilità superiore al 95%, per cui con ampie garanzie di successo. Ecco, quelli sennò che stiamo affrontando adesso invece sono quelli rapidi, che in genere sono diffusi nelle aziende private che devono ricollocare i lavoratori assolutamente rapidamente. No, era giusto dirlo, perché altrimenti, cioè, diciamo, dal mio punto di vista, sottolinearlo, anche per lei poteva essere evidente, ma insomma. No, un'ultima cosa che le voglio chiedere, scusi, professor Clerici, è questa, velocemente perché non abbiamo più molto tempo, però so che si sta lavorando anche su degli altri test ancora più rapidi. Ho sentito parlare di test di individuazione molecolare, o comunque la stessa Diasorin ha annunciato che sta lavorando a produrre dei test, per esempio, da utilizzare prima di salire in aereo, no? Per avere rapidamente una diagnostica che non sia efficace, precisa, come può essere magari il tampone, ma più veloce. Cosa si sa di questi test? Sono in sviluppo, sono test che sicuramente sono già presenti sul mercato per altre malattie infettive. Ad esempio per l'HIV esistono dei test che si possono effettuare sulla saliva e sono adottati nelle campagne di screening, nelle piazze una volta all'anno, quando è la giornata mondiale dell'AIDS. E da 5 a 30 minuti sono in grado di rilevare la presenza del virus nella saliva del paziente infetto. Per cui Diasorin si sta impegnando su questo, come anche altre aziende, fortunatamente, perché l'importante è che noi si abbia una leale concorrenza, perché la ricerca sviluppata da più aziende sicuramente ci porterà a risultati più efficienti. Per cui stanno operando in questo senso e ci auguriamo che arrivi nella svelta. Però attenzione, tutto questo, quando ci sarà il vaccino, dovremo rivederlo tutto. Sarà un'altra partita ancora. Grazie per ora, professor Clerici, grazie per essere stato con noi. 13 e 47 minuti, questo dunque era il punto sull'andamento dei test sierologici. I dati, quelli importanti, dovranno ancora arrivare, ci vorrà ancora sicuramente qualche giorno. Pausa, torniamo tra un attimo. Giulia Crivelli, Effetto Mondo.